il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Come degustare un buon caffè? Oggi cercheremo di scoprirlo, perché è diventato un gesto così naturale per chi lo beve quotidianamente e per alcuni anche un rito, che forse diamo per scontato di sapere tutto del caffè. A questa bevanda potremmo dedicare numerose trasmissioni, però proviamo oggi in pochi minuti a capirne di più. Abbiamo infatti la possibilità di fare qualche domanda a uno dei degustatori e formatori di una delle principali aziende italiane del settore, Andrea da Rossa. Quante e quali sono le tipologie di caffè? Allora, fondamentalmente le tipologie di caffè che vengono utilizzate sono due: la famosa arabica e l'altrettanto famosa robusta. Molto più conosciuta nelle nostre zone, soprattutto quindi nel nord Italia, è l'arabica, caratterizzata da molti profumi piuttosto intensi di fiori e frutta matura, e al palato una bella sensazione di freschezza, in particolar modo di acidità. Per quanto riguarda invece la robusta, è l'esatto opposto, un qualcosa che ricorda molto la cioccolata, in particolar modo la cioccolata bianca. Al palato una bella sensazione di forza, di persistenza, con quello che nel concetto tipicamente italiano è quello che viene definito proprio il profumo e il ricordo olfattivo tipico del caffè, quindi il tostato molto intenso e questa sensazione veramente molto lunga di cioccolata. Tu sei già passato a parlare di degustazione, quindi a dare delle indicazioni, ma quando uno sente parlare di freschezza nel caffè, che poi beviamo anche caldo, quindi sembra quasi un controsenso, cosa significa? Beh, è vero, questo è proprio vero, ma in effetti è un po' quella sensazione pungente che sentiamo sui lati della lingua. Spesso le persone ritengono i caffè che pungono un pochettino i lati della lingua dei caffè più forti, più aggressivi. Beh, è un errore nella percezione. La vera forza nel caffè si percepisce su tutto il palato, quanto riempie nella sua completezza il palato. Quella sensazione di pungenza è tipica dell'arabica. Quindi quando ci renderemo conto che assaggiando un caffè, indipendentemente dalla metodologia di preparazione, i nostri lati della lingua verranno in qualche modo stuzzicati e piacevolmente stuzzicati, beh, allora sicuramente avremo assaggiato una miscela in cui la percentuale di arabica sarà piuttosto elevata, se non addirittura al 100%. Ecco, immagino che come per i vini il caffè non ce ne sia uno adatto per tutti, probabilmente ci sono varie tipologie di caffè che in determinati momenti o in determinate situazioni o a seconda di quello che si vuole trasmettere siano più adatti. Ecco, che cosa uno potrebbe cercare? Ma è vero, allora noi in Italia abbiamo un po' questa idea che il caffè è l'espresso e l'espresso è l'unico e vero caffè. In tutto il resto del mondo il concetto è molto diverso. Esistono svariate tipologie di preparazione del caffè. Basti pensare solo alla nostra Italia, andando un pochettino più indietro nel tempo, la preparazione alla napoletana, la preparazione con la moca e indubbiamente la preparazione con l'espresso. La preparazione con la macchina espresso è una preparazione recente, quindi nasce nel 1948 con l'invenzione vera e propria della macchina in pressione ad opera di Achille Gaggia. Ecco, quello è il caffè di sicuro più intenso, più corposo, più persistente, ma allo stesso tempo è quello con il minor contenuto di caffeina. E questa è una cosa, è un dato abbastanza curioso. Il gusto del caffè non c'entra col contenuto di caffeina. Il volume del caffè, ecco, quello sì è importante. Maggiore è il contenuto di caffè in una tazza, allo stesso modo andrà a aumentare il volume di caffeina. Così per pura curiosità, ricordiamoci sempre che in una tazza che ci prepariamo la mattina con la moca, mediamente avremo quasi il doppio di caffeina rispetto a quanto andiamo ad assumere con una tazza di espresso presa nel nostro bar sotto casa. Ci fermiamo per qualche minuto o ritorniamo tra poco? Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di caffè, lo stiamo facendo con Andrea Daros, degustatore e formatore nel mondo del caffè. Abbiamo visto un po' quali sono i tipi di caffè e anche che si può fare una degustazione di caffè. Una curiosità, nel caffè, il caffè abbiamo visto anche che si prende nel mondo in modi diversi. Perché in Italia ci siamo abituati ad avere un caffè espresso, un caffè molto ristretto? Magari in altre zone abbiamo queste, non possiamo chiamarle brodaglie, abbiamo rispetto del caffè, però comunque questi beveroni che magari ci lasciano sorpresi quando ce li presenta. Ma è un fatto storico. Diciamo, noi in Italia abbiamo già dagli inizi del 1900 cercato un qualcosa di diverso, di abbastanza corposo. E già nel 1901 l'ingegner Bezzera in qualche modo creò una macchina espresso molto simile a quelle attuali, ma la motivazione era quello di riuscire a ottenere una bevanda forte che desse la capacità alla popolazione, ricordiamoci siamo più di un secolo fa, di affrontare la dura giornata lavorativa. E poi questo è diventato una nostra caratteristica, un vero e proprio simbolo del Made in Italy. L'espresso è il caffè italiano per antonomasia. Nel resto del mondo i gusti sono diversi. Certo, noi italiani quando pensiamo al caffè filtro, quindi preparato con una metodologia totalmente diversa, spesso e volentieri lo definiamo una brodaglia, è vero. È allo stesso modo corretto ricordare che tra le due preparazioni, l'espresso e il caffè filtro, c'è veramente un universo di differenza. Da una parte il caffè espresso è prodotto attraverso una macchina in forte pressione, va a estrarre molte sostanze aromatiche. Dall'altra parte invece il caffè filtro è un caffè ottenuto per percolazione, quindi senza utilizzare la pressione, e le sostanze aromatiche sono decisamente inferiori. Oltre questo, l'altra grossa differenza è questa: il caffè filtro, il caffè cosiddetto all'americana, è un caffè che assomiglia molto di più come concetto al tè, quindi è una bevanda attorno al quale magari, ecco, che è necessario andare a occupare un tempo, un lasso di tempo abbastanza lungo, almeno 5-10 minuti, da sorseggiare sorso dopo sorso con delle persone in un momento così di tranquillità. Il caffè espresso invece, questa bevanda molto corroborante di circa 20-25 millilitri, è proprio tipicamente italiana, dominata quasi dallo stress. Si prepara in 25-30 secondi e si beve istantaneamente. Non una cosa per comunicare, per stare assieme, ma forse per spezzare e basta un po' l'attività quotidiana. Nasce, è vero, nasce fondamentalmente per questo. Allo stesso modo però i tempi stanno cambiando e le mode globali stanno arrivando anche qui in Italia. E in effetti attualmente anche questa connotazione dell'espresso, cioè uno stacco netto durante la giornata lavorativa, si sta in qualche modo modificando. Ecco che sta diventando sempre di più il fulcro attorno al quale si va a sviluppare un contesto di socialità. Ultima domanda, per il caffè che prepariamo in casa con la classica moka, si possono fare dei buoni caffè anche con le miscele normali che troviamo o bisogna assolutamente prendere caffè in grani e poi tostare, cioè macinarselo, eccetera? E come sceglierle? Bella domanda questa. No, anche a casa ci possiamo fare un ottimo caffè ottenuto con la moka. Ma c'è una regola d'oro che consiglio a tutti quanti: attenzione alla conservazione. Una volta che il nostro pacchettino per la moka è stato aperto, ecco, andrà sempre conservato in un barattolino chiuso in maniera il più possibile ermetica e conservato in frigorifero. Le basse temperature fanno sì che il caffè e in effetti tutti gli alimenti mantengono le caratteristiche organolettiche, fondamentalmente i profumi, per molto tempo. Ecco, se faremo questo, il nostro pacchettino piccolo, così caro, che ci ricorda fortemente la colazione, ecco che riuscirà a darci le sue caratteristiche migliori per quasi una settimana. Grazie. Passiamo velocemente ad alcune notizie prima di chiudere la trasmissione. Le piogge cadute da inizio anno fino a metà giugno nel Veneto variano dai 450-500 mm della pianura meridionale ai 900 della pedemontana fino a superare i 1.300 in varie località delle Prealpi. Solo nei primi 15 giorni del mese di giugno la media delle precipitazioni avrebbe raggiunto i 107 mm con punte di 200 sulle Prealpi. Ne risente ovviamente l'agricoltura e anche la viticoltura. Ma dati alla mano si scopre che l'anomalia meteo è minore di quanto si potrebbe pensare. Nell'area di Conegliano, ad esempio, nel 2013-2014 le precipitazioni erano state ancora più abbondanti. Lo dice l'ARBAV e lo conferma Veneto Agricoltura, che mercoledì 22 giugno, assieme all'Università di Padova e al CREAVIT, presenterà le anticipazioni dell'annata vinicola. Ebbene, le previsioni per l'uva non sono così malvagie, anzi, l'estate inizia in questi giorni e, se sembra certo che la vendemmia risulterà ritardata, il vigneto troverà certamente la maniera per assestarsi. Un problema dell'anomalo andamento climatico è piuttosto il fatto che abbia richiesto fino ad ora mediamente già 6 o 7 trattamenti. Forse la produzione sarà minore, ma per ora non c'è certo da fasciarsi la testa. Concludiamo con un breve comunicato di Coldiretti Veneto che interviene sulla questione della caccia migratoria. L'Associazione degli Agricoltori ricorda l'impegno assunto dall'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan a predisporre un regolamento nel più breve tempo possibile. Si tratta di una responsabilità a cui il governo regionale non può sottrarsi, spiega Coldiretti, e a queste dichiarazioni ufficiali fanno riferimento migliaia di imprenditori agricoli che da sempre, in armonia con le associazioni venatorie rispettose delle buone pratiche agronomiche e dell'ecosistema, non hanno alcuna intenzione di accettare accessi indisciplinati sui fondi di loro proprietà, coltivati e curati quotidianamente. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.